Europa 24. Buongiorno, buon pomeriggio a tutti da Daniele Biacchessi. Idomeni, le autorità greche continuano lo sgombero dei profughi dal campo più grande del paese. Idomeni è un luogo nelle mani dei trafficanti, dice Atene. L'Unione Europea estende proprio il mandato della cosiddetta Operazione Sofia per la lotta al traffico di esseri umani. Quella popolazione è comunque allo stremo delle forze, sono rimasti ai domeni, le condizioni di vita sono terribili per mesi e fino a sono stati sorpresi, tra virgolette, da questa presenza immensa di forze dell'ordine, quindi credo che, cioè, da quello che sembra non hanno l'energia per reagire in modo diverso. Racconta così Gabriele Casini di Save the Children parlando dello sgombero in atto nel campo provvisorio di Idomeni, dove da febbraio oltre 8.000 persone vivono in condizioni disumane. L'operazione è cominciata stamane all'alba e ai giornalisti non è stato permesso l'accesso alla zona. I primi autobus hanno lasciato il campo, diretti a nuovi centri di accoglienza aperti nel nord della Grecia, dei quali però si sa poco o niente. Ancora Casini. Sappiamo che comunque negli altri campi in cui le persone sono state portati nei giorni passati, i servizi sono abbastanza scarsi, non c'è abbastanza, cioè non ci sono abbastanza servizi igienici, non c'è abbastanza acqua. Lo smantellamento sarà completato in una settimana, 10 giorni al massimo, ha detto così il portavoce del governo greco, secondo cui una cosa come Idomeni non può essere mantenuta perché serve solo gli interessi dei trafficanti. Ed è proprio di questo che si è occupata l'Unione Europea, raggiungendo l'accordo per ampliare la sua missione contro il traffico di migranti al largo della Libia, rafforzando l'addestramento per la Guardia Costiera e la Marina Libica. Una decisione presa dai ministri degli esteri che hanno scelto di estendere di un anno l'operazione Sofia, che dovrebbe finire a luglio. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, si dice impaziente di lavorare insieme al neopresidente austriaco per dimostrare che le soluzioni europee sono chiave per un futuro migliore. Questo è il messaggio della lettera di congratulazioni inviato Alexander Van der Bellen, secondo quanto riferito dal portavoce Juncker, che già ieri pomeriggio lo ha chiamato per congratularsi tra i primi leader europei. L'Eurogruppo discute oggi del caso del debito pubblico greco. È una partita dall'esito ancora incerto, quella che dovrebbe risolvere almeno temporaneamente l'attuale puntata della crisi greca. I ministri delle finanze della zona euro si riuniranno questo pomeriggio qui a Bruxelles per una ennesima riunione. Due gli aspetti sul tavolo: l'esborso di una nuova tranche di aiuti dopo le recenti riforme economiche approvate dal Parlamento greco e un eventuale alleggerimento del debito pubblico, oggi al 180% del prodotto interno lordo. Su questo secondo versante il confronto tra i creditori è acceso. Il Fondo Monetario Internazionale insiste per una riduzione del debito pubblico greco che sia radicale, mentre gli altri creditori sono freddi. Contrasti vi sono anche sulle previsioni economiche legate al pacchetto di riforme adottato dal governo Tsipras. Gli europei sono più ottimisti dell'FMI. A complicare le cose è il fatto che molti Paesi membri vogliono che il fondo rimanga un partner degli europei nel salvataggio della Grecia. Diplomatici qui a Bruxelles si aspettano un accordo sull'esborso di una nuova tranche di aiuti, ma hanno dubbi su un'intesa che sia definitiva per quanto riguarda il debito. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. Nell'Unione Europea 1.700.000 persone in un'età inferiore ai 75 anni sono morte nel 2013. 577.500 di questi decessi, ovvero il 33,7%, si sarebbero potute evitare con cure sanitarie ottimali, viste le conoscenze e le tecnologie mediche. Le quote più alte dei decessi evitabili in Unione Europea si sono registrate in Romania e Lettonia. Poi Lituania, Slovacchia, all'opposto la Francia al tasso più basso, seguono Danimarca, Belgio, Olanda, l'Italia è al 33%. Sono questi i dati di una relazione pubblicata oggi da Eurostat. Torniamo questa sera con Europa 24 all'interno di Effetto Notte. Europa 24. collaborazione con Euronet Plus.